24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:21 minuti, eccoci qua. Buongiorno cari ascoltatori, l'ultima puntata della settimana di 24 mattino. Di cosa parliamo nel nostro sondaggio di oggi? Parliamo di politica, dei nuovi sottosegretari nominati ieri dal premier Berlusconi. Non sono gli ultimi, l'opposizione dice è un'indecorosa scelta, il governo dice dovevamo puntellare la maggioranza. Vi chiediamo, voi da che parte state? Con la posizione del governo oppure con le opposizioni che criticano? Votate su Radio24.it, alle 8:30 ne parleremo con ospiti politici. E questo è uno dei temi su cui aprono molti quotidiani. In primo piano. E allora, alle 7:35 minuti, continuiamo nella lettura dei giornali. Beh, certo, ancora l'attualità internazionale, la vicenda dell'uccisione di Osama Bin Laden è sulle prime pagine di tutti i giornali, soprattutto per un particolare. Gli analisti della CIA hanno cominciato a mettere mano al PC, al computer che è stato trovato nel covo dove è stato ucciso Bin Laden. E beh, dai primi dati, i segreti del covo di Bin Laden studiava un altro 11 settembre. Questo titolo c'è sia sul Corriere ma anche su Repubblica. Al-Qaeda progettava una nuova strage. Era previsto soprattutto un attacco contro i treni negli Stati Uniti. Secondo indiscrezioni, scrive Guido Olimpio sul Corriere della Sera, indiscrezioni che comunque sono all'inizio, si progettava in questo attacco che comunque non era ancora entrato in una fase operativa e quindi non esiste alcuna minaccia specifica. L'idea era fare deragliare un treno, magari nel decimo anniversario dell'11 settembre, facendolo precipitare da un ponte dopo aver sabotato i binari. L'idea, secondo Guido Olimpio, è anche questa: le fughe, queste fughe di notizie date dagli Stati Uniti possono anche essere un tentativo per dissuadere i terroristi, come dire guardate che conosciamo i vostri piani, quindi meglio che rinunciate. Tra l'altro ieri c'era il segretario di Stato americano Hillary Clinton qui a Roma, ha incontrato ovviamente il premier Berlusconi, il ministro Frattini, e ha anche dovuto rispondere a una domanda sul fatto di quella famosa foto, non sapete, quella foto che ritraeva dal presidente Obama a lei, a tutti i membri più importanti del Consiglio di Sicurezza Nazionale che stavano seguendo probabilmente sul video le fasi del raid in Pakistan, e c'è questa foto con i volti molto tesi, molto contratti. C'è anche questa foto con Hillary Clinton che si copre con la mano la bocca, al che hanno chiesto, insomma, era talmente preoccupata signora Clinton, che cosa stava vedendo in quel momento sul video. Lei ovviamente non ha voluto rispondere, non ha detto non dirò certo che cosa stavo vedendo per questioni di sicurezza nazionale. Appariva angosciata, ma quella mano sulla bocca non ha alcun significato di sorta, ero solo preoccupata a prevenire la mia tosse allergica. Così ha risposto Hillary Clinton a questa curiosità. Vabbè, il tema invece politico, diciamo, sono due i temi che trovate sviluppati sui giornali, quello politico e quello economico, che vedremo tra poco col decreto sviluppo. Quello politico è il tema anche del nostro sondaggio, la nomina di nuovi 9 sottosegretari nell'esecutivo. Per la verità sono 9 sottosegretari, ma c'è anche una nomina che riguarda Massimo Calearo, che non è sottosegretario ma sarà consigliere per il commercio estero per il premier. Insomma, le posizioni sono molto chiare. Per il governo, il titolo del Sole 24 Ore, pagina 19, i responsabili entrano nel governo. Per il governo è tutto logico, dopo l'addio di Future Libertà, dopo lo strappo confini, per cui alcune poltrone, alcuni hanno abbandonato posti di governo, i Fignani, e quindi andavano rimpiazzati. Per le opposizioni invece è una vergogna, è uno scandalo, perché sono state premiate anche persone che hanno votato la fiducia il 14 dicembre, persone che magari un paio di giorni prima del voto della fiducia erano nei Fignani, come per esempio Katia Polidori, e che poi hanno votato la fiducia e quindi per le opposizioni sono stati ricompensati per questo. È tutto un profluvio di articoli e retroscena su questo. Il rimpasto non placa i malumori della maggioranza, questo è il titolo del Corriere della Sera, perché tra l'altro ovviamente ci sono anche persone che speravano, ambivano a un posto. Berlusconi ha detto per la verità che non solo le nomine, non ci sono solo queste nomine, ce ne saranno anche di altre. Gli esclusi però protestano, per esempio Pionati è quello da cui molti giornalisti vanno per sondare gli umori. Al Corriere dice: io fuori non mi metto certo in coda con gli assatanati. Sembravano i saldi da Cenci, che è un negozio vicino alla camera di abbigliamento. Una grande folla accalcata all'ingresso, gente in coda da ore, sudata, preoccupata. Ma io sono snob e non mi metto mai in fila. Preferisco cedere il posto agli assatanati e aspettare. In un'altra intervista invece al Riformista si fa un po' più enigmatico Pionati. Dico: preferisco aspettare. Tanto, sa cosa c'è? Sono a fare in campagna elettorale, tanto il governo dura poco e presto si rivota. E allora si vedremo, io i voti ce li ho, gli altri miei colleghi non so. Il Fatto Quotidiano invece a pagina 2 mette uno sfogo che avrebbe, usiamo il condizionale, il premier Berlusconi con Bossi. Umberto, non sai quanto mi hanno fatto penare questi qui, richieste su richieste, impossibili. Ti faccio un esempio: Luca Barbareschi mi è costato 3 fiction. Luca Barbareschi che per la verità non è stato nominato a nulla. Anche per Repubblica il Cavaliere cerca quota 335 e lancia la riffa del sottogoverno. Ora devo accontentare tutti. Per il secolo XIX c'è stata una vera notte prima delle nomine di fratelli coltelli, gente che cercava di raggiungere il premier a dire: scegli me e non scegliere lui. C'è Villari che era del PD in tempi lontani, ora è stato nominato sottosegretario ai beni culturali, che dice: a me non mi hanno comprato, non scherziamo. Ma soprattutto ci sono due posizioni, diciamo, editoriali, di commenti che voglio sottoporvi. La prima è quella di Alessandro Sallusti sul Giornale. Il titolo dell'editoriale è: lunga vita agli scilipoti, il governo ha 9 nuovi sottosegretari, ce n'era bisogno? Si chiede a Sallusti? Non lo so, ma sono certo che dopo il tradimento di Fini e dei suoi, la maggioranza aveva la legittima necessità di rafforzarsi per andare avanti. Alcuni certo sono mossi da nobili intenti, altri da calcolo personale, esattamente come il 99% di chi fa politica. Un errore di presunzione è quello di far cadere il governo, che i traditori di Berlusconi hanno pagato carissimo. Lunga vita dunque agli scilipoti, che giustamente ora vanno ricompensati per aver impedito il ribaltone. Così Sallusti sul Giornale. Mentre vi voglio leggere il Buongiorno di Massimo Gramellini in prima pagina sulla Stampa, dal titolo: razzi suoi. Vorrei spezzare una lancia o almeno una pancia a favore del povero scilipoti ingiustamente elevato da noi pennivendoli a simbolo del mercato delle vacche di Piazza Montecitorio. Nel rimpasto di ieri il capo del responsabile ha rimediato soltanto un esilarante inno di partito composto da una sottomarca di apicella. Ben diverso il destino del compare Antonio Razzi, cresciuto anche lui alla corte di Di Pietro. Razzi, quello che 6 mesi fa diceva: io ho una faccia sola, come potrei farmi vedere ancora in giro se passassi con Berlusconi? E poi è passato con Berlusconi, faccia compresa. Quello che denunciava il PDL ha persino proposto di pagarmi il mutuo. E da noi alleato del PDL ha presentato una proposta di legge per togliere l'ICI agli italiani residenti all'estero, cioè a se stesso. Quello che, sistemata la casa, voleva arredarla con una poltrona, un posticino, qualcosa per dire grazie. E ieri è stato nominato consigliere personale del ministro dell'agricoltura, il corresponsabile romano. Razzi dovrà occuparsi di lotta alla contraffazione alimentare. Cautamente sondato sulle sue esperienze in materia, ha detto: sono un buon gustaio e soprattutto un buon cuoco. A tempo perso aiuto mia moglie in cucina. Perché il vero tratto distintivo di questa casta di macchiette non è più nemmeno l'incompetenza, è la mancanza di vergogna. Così Gramellini nel suo Buongiorno oggi. Segnalo come politica un'intervista al ministro Galan sul Messaggero a pagina 5, dopo aver fatto fuoco e fiamme contro Tremonti in un'intervista al Giornale che ha destato anche un po' di mal di pancia, non da poco, nella maggioranza. Ora Galan un po' smussa i toni su Tremonti: non ho mai avuto problemi personali col ministro, ammetto che mi piace di più quando fa il ministro dell'economia, meno quello delle finanze, con questo decreto, il decreto sviluppo, ha svolto il primo ruolo. Poi certo si può dire che poteva darci il testo prima, ma alla fine abbiamo discusso correttamente. Invece Galan però ce l'ha ancora un po' col partito, il suo partito. Dice: il PDL non c'è più, troppo spazio alla Lega, la Lega fa i suoi interessi, li fa bene, siamo noi che manchiamo di iniziativa, noi non ci siamo, noi non diciamo che stiamo in Europa e vogliamo restarci, che non vogliamo dazi ma più liberalizzazioni, che dobbiamo attirare investimenti e non possiamo fare le guerre a Lactalis, che gli immigrati ci servono e che ne serviranno ancora. Ecco, Galan in questa intervista al Messaggero dice: manca quello spirito del popolo della libertà che c'era delle liberalizzazioni, di farsi sentire, invece si fa sentire soprattutto la Lega. È un giorno invece di esultanza politica, lo trovate su tutti i giornali, per l'ex ministro Scajola, perché nell'inchiesta sul G8 è stato scagionato. C'è da dire che Scajola, per la famosa casa comprata forse a sua insaputa in parte, non è mai stato indagato. Nell'inchiesta sul G8, per i quali i magistrati hanno chiesto invece il processo all'ex sottosegretario Bertolaso, Scajola invece esce dal processo. Confermata la mia estraneità, il giornale a pagina 12 ci dedica una pagina, per la verità, dicendo che il punto è che la presunzione di una compravendita di questa casa con vista al Colosseo, in parte fatta con 900.000 euro dell'architetto Zampolini per conto del costruttore Diego Anemone, è un sospetto, però i magistrati non hanno trovato la prova che inchioderebbe da questo punto di vista Scajola. Un anno di gogna immotivata, così Scajola si sfoga, per la verità ha fatto un messaggio, ha postato dei messaggi sul suo blog che tutti i giornali riprendono, così sul Secolo XIX, l'ex ministro prepara la rivincita col PDL, solo io ho pagato, anche a pagina 19 della Stampa, Scajola insomma che si prepara forse ora a in qualche modo a battere i pugni per dire: mi sono dimesso, ora non sono mai stato indagato, sono fuori dal processo e praticamente ho pagato solo io. In primo piano. Il decreto sviluppo è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Ora riassumervi tutte le novità non è possibile, sono sicuro di questo. Oscar Giannino se ne occuperà tra l'altro alle 9. Ci saranno dunque maggiori dettagli. Certo, io voglio segnalare, prima delle tante novità e dei tanti articoli interessanti sul Sole 24 Ore, mi ha incuriosito il titolo della Padania: la Lega e Tremonti rilanciano l'economia. Cioè, approvato il decreto sviluppo e la Padania titola così: la Lega e Tremonti. Questo, insomma, per chi vuole alimentare insomma sospetti, dubbi, e per chi avesse ancora dubbi che tra la Lega e Tremonti c'è grande affinità politica, affinità e legami politici, ecco il titolo della Padania: la Lega e Tremonti rilanciano l'economia. E allora il decreto sviluppo. Il titolo di apertura del Sole 24 Ore è: casa e fisco più semplici. Per dire quante sono le novità, il Sole vi dedica da pagina 2 a pagina 13, insomma sono tantissime. Intanto vi segnalo la pagina 3 con Marco Mobili, c'è anche un'interessantissima e molto pratica infografica nella quale si può, dalle semplificazioni fiscali, amministrative, edilizie, le banche, grandi opere, il piano casa, scuola, università, turismo, servizi pubblici, sostegno alle imprese, è riassunta quelle che sono tutte le misure approvate, quando entreranno in vigore, una sorta di semaforo e di classifica sulla loro efficacia data dal Sole 24 Ore e tutte le criticità che ci saranno nell'applicare queste norme che sono state approvate dal Consiglio dei Ministri. Segnalo anche dalla A alla Z, Marco Mobile e Dino Pesole fanno un restyling fiscale in alfabeto, dalla A alla Z, dalla A di accessi alla Z di zero burocrazia, tutta un'intera pagina, pagina 5. Certo, fa anche molto discutere. Ci sono tante novità edilizie sulla casa, per esempio spiegate a pagina 5 con il permesso, il silenzio assenso e la possibilità di costruire entro 90 giorni se non arriva un sì o un no. Fa molto discutere invece, ed è sviluppato dai giornali, la decisione di concedere, facendo fruttare, nella speranza di far fruttare i 7.400 km di coste italiane, di attribuire ai privati il diritto di superficie sulle spiagge per 90 anni. A quali privati? Beh, ha detto Tremonti, a quelli che sono in regola con il fisco e con la previdenza, intanto, e così con la possibilità di investire. Perché fa discutere? Perché dal punto di vista di alcuni giornali come l'Unità, Tremonti regala le spiagge ai privati. Questa è la discussione e la polemica che c'è. In realtà Tremonti ha detto ovviamente la spiaggia rimane una zona di libero passaggio, rimane pubblica, ma le concessioni per i prossimi 90 anni vengono fatte perché almeno gli imprenditori possono avere certezze per poter investire. Esulta infatti il sindacato degli stabilimenti balneari con Riccardo Borgo, che viene intervistato dalla Stampa a pagina 15 sotto il titolo «Spiagge ai privati per 90 anni». Ecco, ripeto, il governo proroga queste concessioni, per l'opposizione, per i Verdi è addirittura un regalo agli speculatori. E invece il presidente Borgo dice: beh, meglio, è svanita la paura per la scadenza dei canoni demaniali del 2015, questo di fatto azzera le manovre di quanti si erano già fatti avanti per sondare il territorio e convincere i titolari di stabilimenti a cedere le aziende familiari in cambio di una sopravvalutazione, tanto poi comunque nel 2015 dovrai vendere per forza. E con questa lunga perifrasi si riferisce proprio alla mafia, il presidente del sindacato italiano balneari Riccardo Borgo. Ebbene sì, venivano offerte strane, soldi russi in Versilia, soldi di provenienza non direi dubbia ma di accertata illegalità in Liguria. Alcuni bagni hanno ricevuto avance esplicite, offerte molto allettanti. Ora invece con questa proroga e con questa possibilità di investire di avere la possibilità di 90 anni di lungo termine, possiamo tornare a investire soprattutto le giovani generazioni con la sicurezza di 90 anni di attività. Insomma, spiagge ai privati, questo è uno degli aspetti del decreto sviluppo che è arrivato un po' anche a sorpresa e che fa più discutere. Voglio segnalare ancora due cose di cronaca. La prima è l'arresto di Calisto Tanzi, che a 72 anni è andato in cella due giorni dopo la sentenza che l'ha condannato in via definitiva a 8 anni e 30 giorni per aggiotaggio. È stato prelevato Calisto Tanzi, l'ex patron di Parmalat, portato in carcere, anche se, fa sapere Giuseppe Guastella sul Corriere della Sera, c'è l'indulto, dunque scende a 4 anni e 4 mesi. E avendo più di 70 anni potrà ottenere la detenzione domiciliare, quindi si presume che rimarrà in cella, ma non molto. Fausto Tonna, il suo ex braccio destro su Repubblica, intervistato da Paolo Berizzi, già fece un'intervista molto dura per la prima volta un mese fa, ha ribadito: ribadisco, è un codardo, ma mi dispiace per lui, non lo volevo vedere in carcere, e quando si vede una persona in carcere non è mai una bella cosa. La chiusura, non potevo esimermi sul raduno. Il raduno, la dunata, quelli con la A maiuscola, degli alpini a Torino. Il Corriere ci dedica una pagina, il nostro Peter Bescapè alpino è già contento così, poi andrà ovviamente. Gli alpini a Torino, inno alla solidarietà, pagina 30 del Corriere della Sera, al Via Domani, la dunata nazionale, sono attesi 500.000 alpini, 500.000 penne nere, per celebrare tra l'altro ovviamente i 150 anni dell'Unità d'Italia. Se volete sul Corriere a pagina 30 tutto il programma, se no scrivete a Peter Bescapè che ve lo dice lui. All'intervista voglio salutare l'onorevole del Partito Democratico Giuseppe Fioroni. Onorevole, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, il capo dello Stato napoletano dice: o è credibile, affidabile, o la sinistra rimarrà all'opposizione. Per Prodi, gli eredi dell'Ulivo litigano e basta. Stato di salute del PD? Lo stato di salute del PD è buono, prendendo atto di un paese in cui la maggioranza di governo ed il governo sono in uno stato agonico. Certo, le parole del capo dello Stato debbono rappresentare per ciascuno di noi la stella polare, devono rappresentare quello che la stella polare rappresenta per i naviganti, cioè un percorso e un impegno costante. D'altronde le parole di Napolitano, che parla che per creare un'alternativa di governo bisogna che l'opposizione metta in atto una alleanza e dei comportamenti che siano credibili, affidabili e praticabili, sono i motivi per i quali il Partito Democratico è nato. Abbiamo fatto tutto? Sicuramente no, c'è ancora molta strada da fare e c'è ancora molto da dover realizzare, soprattutto avere la capacità di tagliare quei cordoni ombelicali che ogni volta ci fanno sentire taluni preoccupati del nemico a sinistra. Quale cordoni? Per esempio, Di Pietro, a lei nel PD l'alleanza, cioè PD Di Pietro, le piace? Ma guarda, io sono stato tra coloro che ha sempre sostenuto che le alleanze si fanno su valori, progetti e programmi condivisi. Una cosa è certa, la politica estera è uno di quei temi sulle quali non si può scherzare, perché ne va la credibilità, l'affidabilità e l'autorevolezza del Paese. Noi abbiamo visto una maggioranza di governo che non è stata in grado di onorare i propri impegni internazionali e farlo con la schiena dritta, ma si è accodata, e si è accodata senza rendersi conto che il Nord Africa è il giardino di casa nostra, rinunciando a quel ruolo di proposta e di traino della politica estera e della costruzione delle ragioni, perché, insomma, diciamolo con la battuta, le bombe intelligenti, umanitarie, possono essere utili per la Francia e l'Inghilterra, per l'Italia non basta. No, ma questo sì, però onorevole, la questione... Quindi è ovvio, e l'ho detto con grande chiarezza, che avere una coesione in politica estera è un elemento fondante. Ieri l'onorevole ha detto: io sono al PD come la Lega sta al PDL. Ecco, siccome la Lega, abbiamo condiviso tutti, che ha dato insieme con la PDL uno spettacolo indecoroso e ha fatto perdere ulteriormente credibilità all'Italia, una alleanza di governo credibile, affidabile e praticabile, come ha detto il Capo dello Stato, o si è seri in politica estera, o con chi non lo è diventa complicato poterla fare. Quindi anche con Di Pietro. Immagino anche con Vendola, lei non si... Lei è cattolico all'interno del Partito Democratico, con Vendola non credo che ci azzecchi molto... Guardi, questo il problema è di natura diversa. Vendola sta realizzando un'esperienza di governo in Puglia, dove come presidente della regione ha dimostrato grande senso di equilibrio e ha dimostrato, governando, di essere credibile, affidabile, e anche di che la sua maggioranza è una maggioranza che ha reso praticabile per la Puglia. E quindi va bene. Stagioni diverse. Con Vendola dobbiamo confrontarci quotidianamente su programmi e progetti, e anche per lui vale in maniera determinante le posizioni in termini politici. Il problema è che se sta da solo il PD così non vincerà mai, cioè, e poi, come dice Napolitano, è destinato all'opposizione, voglio dire, in termini numerici, proprio di voti. Da soli, io credo che noi abbiamo di fronte a noi un anno di lavoro indispensabile per costruire quella che io ritengo la priorità assoluta, un nuovo patto con l'Italia e con gli italiani. Berlusconi, io non riesco a capire che cosa possa fare ancora di male o di improponibile per il ruolo che riveste agli italiani per non farsi votare. Io credo che il PD non debba più spiegare agli italiani perché Berlusconi non va bene o è il cattivo, perché questo gli italiani l'hanno capito da soli. Noi dobbiamo lavorare per spiegargli i nostri progetti, i nostri programmi, e costruire un patto con quella parte d'Italia che io chiamo profonda e laboriosa, dall'artigiano al commerciante, al professionista, al cooperatore, al coltivatore diretto, senza la quale non si riesce a governare. E sono convinto che nostre scelte chiare e determinanti indurranno anche con gli altri a dover modificare alcune posizioni per acquisire credibilità e affidabilità. Insomma, non è che si deve preoccupare con chi si allea. Io credo che anche gli altri devono assumere il senso di responsabilità di quelle scelte che sono indispensabili per governare. Questo vale anche il terzo polo, insomma, in politica non ci si presenta per arrivare terzi, arrivare primi. Guardate al terzo polo. No, guarda al terzo polo. Onorevole, però io sono in chiusura, mi dica con un sì o con un no, perché la danno sempre in bilico all'interno del Partito Democratico. Ma lei esce o rimane nel partito? Ma io resto indubbiamente nel Partito Democratico. Il problema è che il disagio è una condizione da lettino, da psicanalista, da stato d'animo. Io non esprimo un disagio, esprimo una linea politica con una schiena dritta che vuole modificare e incidere sulla linea politica del Partito Democratico. Forse c'è qualcun altro all'interno del partito che è ancora convinto che si fanno i congressi e che alla fine dei congressi ci sono solo i vincitori e i vinti che debbano rinunciare a tutti. Non è il partito la sua maggioranza, ma serve un Partito Democratico plurale, perché quello fa parte della credibilità e fa parte dell'affidabilità per rappresentare una società italiana complessa. Quindi tutti quelli che si sentono disagiati da doversi confrontare anche con me su posizioni che servono a rappresentare non una parte della società, ma la complessità se ne faranno una ragione, anzi cominceranno a pensare che sì, plurale è meglio per essere tanti che essere omologati in pochi. Io intanto la ringrazio Giuseppe Fioroni, grazie onorevole del Partito Democratico per essere stato con noi. Rimaniamo a parlare di politica nel nostro sondaggio di oggi, perché parliamo del tema politico del giorno, la nomina di 9 nuovi sottosegretari che fa discutere. Il governo dice, dopo l'uscita e la rottura con Future Libertà, dovevamo puntellare insomma alcuni posti di governo che sono erano liberi. Per le opposizioni alcune parlano di vergogna, di spettacolo indecoroso, di moneta con cui si ripaga persone che hanno votato la fiducia il 14 dicembre. Che ne pensate? State col governo o con la posizione dell'opposizione? Questo è il tema del nostro sondaggio. Votate su radio24.it tra poco, 800 24 0024. E allora il famoso, tanto atteso rimpasto di governo, prima tranche pare, perché Berlusconi ha detto non abbiamo finito, è arrivato 9 nuovi sottosegretari, anche alcune posizioni come quella di Massimo Calearo, che non ha ricevuto una nomina a sottosegretario, ma è assistente, insomma consulente al Premier per il commercio estero. E le polemiche inevitabili. Per il governo è tutto legittimo, c'erano dei posti da coprire, per l'opposizione è uno spettacolo indecoroso. Da che parte state, vi chiediamo nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Guardando i voti su radio24.it dove dovete votare, il 72% sta dalla parte dell'opposizione, cioè a dire è uno spettacolo che non ci piace, uno spettacolo indecoroso. Ne vogliamo parlare con l'onorevole Flavia Perina di Future Libertà, i finiani dunque, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Così come saluto Silvano Moffa dei Responsabili, e buongiorno onorevole Moffa. Buongiorno, eccoci. A voi. Ci doveva essere, ci dovrebbe essere, ci sarà il neo sottosegretario Roberto Rosso. Cominciamo benissimo. Cellulare, guarda, spento, morto. Ci aveva detto fino a ieri, ovviamente. Intervengo con grande gioia. Allora, onorevole Moffa, intanto vogliamo ricordare la sua posizione. Lei passò a ridosso di questo 14 dicembre, voto della fiducia, era tra i finiani. E poi adesso è nei responsabili. Non so, perché qua si fa la conta, pare sui giornali, di chi c'è rimasto bene e chi c'è rimasto male, ma ci saranno nuove nomine. Lei aspettava qualcosa? Sperava, confidava di essere nominato a qualcosa? No, guardi, assolutamente. Per quanto mi riguarda non c'era nessuna aspettativa di questo tipo, né mai si è posto questo problema. Le mie scelte sono di natura politica e tali sono rimaste. Il 14 è stato un passaggio cruciale rispetto al quale io ho fatto le mie scelte e dopo si è costituito un gruppo che, come lei ha ricordato, è il gruppo dei responsabili. Quindi a lei va bene così, è stata una scelta politica per la quale non chiedeva poltrone, nomine? Ma guardi, anche su queste storie delle poltrone che si chiedono, insomma, cioè, se vogliamo uscire un po' dalla semplificazione o comunque da questo bailamme continuo di giudizi affrettati, io credo che molto realisticamente bisogna considerare un dato oggettivo. Il governo era rimasto sguarnito di alcune postazioni dopo la fuoriuscita di Future Libertà dalla maggioranza. Sì. Era evidente che prima o poi si dovesse porre il problema di una ricomposizione di queste, come vogliamo definirle, caselle vuote. Sì, sì. Ma no, ma infatti io per un attimo vorrei, onorevole Perina, fare la parte del governo, cioè dire c'era stata una spaccatura politica, non stiamo a ricostruirla, con Finico e Finiani, c'erano delle caselle vuote da riempire, e poi chi fa politica a cosa ambisce? Chi fa politica ambisce ad avere delle posizioni di potere per fare politica, cioè letta così che scandalo c'è? Ma viene letta in un altro modo, mi pare di capire, no onorevole Perina? C'è un unico modo per leggere la politica. Sa, la politica e gli incarichi di governo non è che sono l'isola dei famosi, certo anche moltissimi ragazzi che fanno i casting aspirano ad andare all'isola dei famosi o al Grande Fratello, ma non è che la politica serve a questo. I governi servono a governare le emergenze, a governare in questo caso la crisi, e qua mi sembra che questo aspetto è stato completamente perso di vista. Qui si portano delle persone al governo non sostenendo che hanno le competenze per governare la crisi, le idee per mettere mano a quelle che sono le grandi partite dell'interesse nazionale. si portano delle persone al governo a uno scopo risarcitorio che è evidente non dalle dichiarazioni mie o dell'opposizione, ma evidente dalle dichiarazioni di alcuni degli stessi responsabili. Pionati oggi dice che lo studio di Silvio Berlusconi ieri sembrava un supermercato in sì, tempo coi di saldi, saldi. Coi saldi. Beh, lui c'è rimasto male forse perché voleva essere nominato anche lui. Forse. D'accordo, però insomma sono giudizi che arrivano dalla stessa maggioranza. Non è che qua uno porta persone appunto al governo perché sono belle, simpatiche, carine o molto amiche del Premier o hanno fatto una cortesia al Premier e devono essere risarcite. I governi servono per governare. Questo in Italia purtroppo l'abbiamo dimenticato. Stiamo assistendo al film di questo governo come se fosse l'Isola dei Famosi. Ma come voglio dire, cioè, come quando Prodi aveva 102 sottosegretari, tra sottosegretari e ministri, doveva tenere insieme la coalizione. Silvio Berlusconi, è vero, è esattamente come Prodi, è esattamente come durante la Prima Repubblica. Cosa succedeva durante la Prima Repubblica? C'era una corrente di maggioranza che puntava i piedi, che si ribellava, che aveva delle ambizioni, si facevano dei grandi vertici di maggioranza e poi sortiva fuori il rimpasto, il governo bis. Ma tutto questo era ciò contro cui il PDL e Silvio Berlusconi dicevano di voler combattere, cioè Silvio Berlusconi nel 94 si è proposto come una rottura netta rispetto a queste cattive abitudini, a questa degenerazione della politica italiana. E quindi è ovvio, è come Prodi, è come Andreotti, è come Forlani, è come tutto ciò che è di vecchio e che ha paralizzato il paese. Su questo, onorevole Moffa, certo, dice non si può avere le prove, come qualcuno dice addirittura, di compravendita eccetera, però effettivamente la gente si chiede, non so, pensiamo all'onorevole Katia Polidori che qualche giorno prima della fiducia appunto passata da Futuro e Libertà è tornata, per la verità, al Popolo della Libertà, adesso ha un incarico da sottosegretario, cioè una persona normale, una persona del popolo dice, beh, è stata ripagata per questo, ripagata con una posizione di governo, con una promozione politica, no? Guardi che la politica soffra di qualche criticità, io credo che sia scoprire un po' l'uovo di Colombo, è evidente che siamo in una fase un po' delicata e particolare, ma questo non con riferimento alla nomina dei sottosegretari, con riferimento un po' complessivamente a quello che è accaduto negli ultimi anni. Tra l'altro io sfuggirei, come dire, alla tentazione di giudicare le persone buone e simpatiche se stanno da una parte e brutte e antipatiche se poi passano. No, ma infatti guardi, io su questo... Io cerco sempre di evitare questo tipo di giudizio. Tra l'altro oggi in qualche misura si vuole dare rilievo a questi aspetti, ricordando, dimenticando un po' anche i fatti che hanno portato, come dire, alla configurazione di una nuova maggioranza, no? E si dimentica che, per esempio, a proposito del governo, oggi su tutte le prime pagine dei giornali campeggia anche la politica di rilancio e di sviluppo economico contrassegnata da passaggi estremamente importanti. No, ma è chiaro, al di là di questo, per dire che i governi poi hanno la loro funzione e continuano a marciare indipendentemente da quello che l'opposizione pensa e dice. Nel caso specifico, guardi, nel momento stesso in cui io ieri ho detto in una dichiarazione che bisogna uscire dalla logica del 14 dicembre, che è una logica che rispondeva a determinati elementi, anche a un fatto assolutamente ineludibile, che era quello del tentativo di formare una maggioranza diversa rispetto a quella uscita dalle urne. Qui mi fermo lasciando il giudizio agli ascoltatori. Però superare il 14 dicembre significa sostanzialmente costituire una maggioranza dove il gruppo dei responsabili, comunque la si voglia pensare, e direi anche deve avere un ruolo dai personaggi che la compongono, è diventata una terza forza all'interno della maggioranza. No, ma certo, numericamente è un gruppo. Quanti siete? 20, 22? Niente di scandaloso che abbia una sua rappresentanza. No, ma guardi, intanto i metodi, questi però appartengono, come dire, alla a politica. Aspetto di una politica. Alla politica. Rispetto alla quale io non è che abbia degli entusiasmi particolari. Però è da sempre così. I meccanismi che hanno determinato i cambiamenti in questo paese. Ma tra l'altro, guardi, il direttore del giornale Alessandro Sallusti oggi fa un editoriale dal titolo "Lunga vita agli scilipoti". che giustamente ora vanno ricompensati per avere impedito il ribaltone. È politica. Voglio sentire prima del traffico un ascoltatore, Mario da Mantova. Buongiorno. Buongiorno. Mario, che dice? Io vorrei ribattezzare i responsabili con gli opportunisti, perché questa è la prova lampante che si sono, diciamo così, venduti alle poltrone. Perché ce l'hanno cantata che erano i responsabili, che per il bene della nazione non hanno fatto cadere il governo e roba del genere. Invece poi abbiamo visto che l'unico scopo era quello di arrivare alla poltrona. Ma mi scusi Mario, io non devo difendere i responsabili, non me ne frega niente, ma perché venduti? Cosa vuol dire venduti alle poltrone? Cioè cos'è la politica? Perché lei ha fatto l'esempio della Polidori che... È proprio l'esempio lampante che all'ultimo momento è ritornata al vecchio schieramento, sì, e ha votato la fiducia. Dubito che lo abbia fatto per uno spirito nazionale, per il bene della nazione. L'ha fatto perché c'erano delle poltrone vuote e sapeva che una di queste poltrone dopo diventava sua. Qualcuno sicuramente gliel'avrà detto. Quindi secondo lei ha fatto questo tipo di strategia. A parte, ma e questo è il venduti per una poltrona. Va bene, grazie Mario. Io soy o blanco o negro. Gris, no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, questo è l'impasto di governo. A parte che molti ci scrivono messaggi, dicendo: ma come? Allora, se dovevano riempire le caselle solo i responsabili. Ma in realtà non è che ci sono solo i responsabili, c'è Villari che era nel PD, lo ricordate, poi è passato nell'MPA. C'è la Melchiorre, Daniela Melchiorre, che è dei Lib Dem. C'è Misiti, che è uno che ha fatto un po' tutto dall'Italia dei Valori all'MPA di Lombardo. C'è Catone della DC. Certo, poi ci sono anche degli ex Fignani passati, o qualcuno dice tornati poi nel Popolo della Libertà, perché inizialmente erano il Popolo della Libertà, dopo la scissione, dopo la spaccatura, alcuni sono stati Fignani per un po' e poi si sono pentiti, evidentemente. Sentiamo Giuseppina da Modena, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Allora, io dico questo, che non mi sta bene che le poltrone di governo debbano essere sempre considerate un voto di scambio, nel senso io faccio un favore a te, tu ne fai uno a me. La politica ha un significato più alto, secondo me, ha il significato di far del al paese, e si pensava che la Seconda Repubblica potesse un po'... Ma perché lei invece vede questo? Cioè vedo un ritorno non tanto alla prima, io vedo un ritorno proprio alla forma classicistica, ma perché io sono siciliana, vedo una forma di scambio e di clientelismo, di aspettare sempre la manna dal cielo e di aspettare sempre qualcosa che invece deve venire da noi. Ecco, non va bene, grazie Giuseppina. Voglio andare a Genova da Carlo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma io voglio dire questo, se vogliamo fare retorica diciamo che nessuno deve prendere soldi per far politica, che va tutto bene, che tutti devono farlo per gli ideali, ma come in tutte le professioni, specialmente la politica, c'è l'ambizione personale legittima secondo me. Quindi se c'è io ho vissuto tantissima politica, perché mio padre è stato presidente della provincia, è stato parlamentare, eccetera. C'è sempre stato un accordo quando si faceva un governo che tutte le compagini di governo dovevano essere rappresentate. Se c'è un nuovo partito è giusto che sia rappresentato anche il nuovo partito. Non ci vedo niente. Quindi lei non vede niente di scandaloso, cioè questi toni scandalosi. Invece il governo ci ha fatto bene perché c'erano nuove forze politiche da rappresentare. Ecco. Ci sono sempre stati gli accordi fra i vari partiti, una parte a te, una parte, è normale perché devono essere rappresentati un po' tutti, cioè uno fa politica per avere più visibilità anche per quello, oltre che a dare le sue idee. Sì. E secondo me se la sinistra continua a fare politiche, cioè a fare sempre queste obiezioni su queste cose, su cose che non interessano la gente, cioè devono parlare dei problemi, io non ho visto ancora la sinistra dire questa cosa non va bene che ha detto la destra, io la farei così. Non c'è la controproposta. Vabbè, ma qua non c'è nessun esponente della sinistra a rispondere, Carlo. Comunque la ringrazio. Parliamo sempre del punto. Onorevole Flavia Perina, non è che c'è un po' di delusione, cioè, tra voi Fignani, nel senso di dire Berlusconi ce l'ha fatta, ha messo i puntelli giusti. Ieri c'è stato anche un po' di insomma, scambio al veleno, al vetriolo tra Berlusconi e Fini a distanza. E quindi c'è un po' di rabbia, ma insomma è un'operazione tutta legittima che sta facendo il Presidente. Ma figuriamoci, un po' di delusione c'è stata il 14 dicembre, quando grazie appunto a questo gruppo di persone si è evitato di mettere il governo e Silvio Berlusconi di fronte alle sue responsabilità. Sono passati 5 mesi, abbiamo fatto altre scelte, abbiamo fondato un partito. Io credo che la vera delusione è quella appunto degli italiani che, come diceva prima la signora al telefono, si aspettavano da questo governo di centrodestra qualcosa di diverso, qualcosa di meglio rispetto alle vecchie pratiche consociative, si aspettavano l'irruzione delle competenze, del merito negli incarichi di governo, si aspettavano il cambiamento italiano e invece appunto si ritrovano con il governo degli scilipoti in qualche modo, e anche se appunto la povero scilipoti, povero ecco. Scilipoti, tutti scilipoti appunto no, ha scelto un ruolo, l'emblema simbolico, a lui ormai non serve neanche più un sottosegretariato, e la controprova di tutto questo è nel fatto che l'unica casella che avrebbe avuto un senso riempire, che è quella del Ministero delle Politiche Comunitarie, che in questo momento è vacante ed è una casella importante, perché il rapporto con l'Europa, nel momento in cui siamo tecnicamente in guerra, c'è la crisi libica, ci sono risoluzioni importanti e vertici importanti a livello europeo, quella casella ma non è finito era il rimpasto. Importante riempirla. Ma non è finito il rimpasto, credo che strategicamente Berlusconi dia un po' alla volta, vuota, no? Perché... No, quella è una casella vuota da 5 mesi ed era la prima che avrebbe dovuto essere riempita nel nome dell'interesse nazionale, perché là non si tratta di accontentare qualcuno, là serve un ministro che governi le politiche comunitarie. Non abbiamo da 5 mesi un governo che lo faccia, perché la casella viene tenuta vuota proprio per sollecitare in qualche modo, non stuzzicare, non scontentare le 10 persone a cui è stata promessa probabilmente. Dice così, insomma, 10 e poi uno è difficile accontentarlo. Leonardo da Bologna, buongiorno. Buongiorno dottore, io la metto sul piano personale. Se questi sono stati eletti regolarmente alle elezioni, poi durante gli eventi qualcuno va da una parte e qualcuno pensa di fare delle carognate e qualcuno invece pensa di sostenere il governo, non ci vedo proprio niente di strano, perché le carognate sono venute fuori da quelli che hanno firmato un patto, ci hanno messo la faccia e il nome, e se non sono andati per far cadere il governo pro domo loro, e gli sta andando malissimo, cara signora Perina, malissimo, e questo è il punto. Sul piano personale sono persone qualificate come lei a ricoprire o più o meno degli incarichi di governo, quindi dice, non c'è nulla di male assolutamente. Va bene Leonardo, la ringrazio. Massimiliano dalla provincia di Ancona. Massimiliano, sì, pronto. Che ecco, deve mi sento anche dalla sua radio, dica. Sì, ho spento la radio. Ecco, pronto? Molto bene. Ecco, voce, l'avevo spento. Ma io volevo fare una considerazione. A mio modo di vedere, il problema che abbiamo in questo momento è del tutto politico. Io penso che in questo caso abbiamo uno, purtroppo, dei peggiori governi che abbiamo mai avuto. Ma il discorso è un altro: il discorso è che noi non possiamo aspettarci diversamente da questo tipo di governo. E l'onorevole Perina ha ragione, il governo, io tanto sono un moderato di centro, ma mi trovo molto molto a disagio, perché il nostro governo non ha fatto nient'altro che pensare all'autosussistenza. Ma nel momento in cui ieri ha visto c'è stato il decreto sviluppo, questo sì, va bene, ma sono briciole rispetto a quello che voglio dire, tra l'altro decreto sviluppo di cui parla adesso Oscar Giannino, insomma il tema politico è quello del rimpasto, però ci sono anche, non è che il governo fa una cosa alla volta. Dopodiché la ringrazio per il suo parere, voglio ringraziare l'onorevole Flavia Perina di Futura Libertà e l'onorevole Silvano Moffa dei responsabili. Allora lo devo dire perché tutto pronto, Peter Beschi. Vabbè, sì. Allora, ormai l'avete capito, il nostro Peter Bescapè è l'alpino, no? Sei tutto pronto per la donata a Torino? Ho letto in rassegna stampa 500.000 alpini. Io voglio citare anche un libro. Ci hanno spedito un libro all'attenzione del gentilissimo Peter Bescapè, l'alpino. Il libro scritto da Vittorio Trentini, 99 anni, compiuti a marzo, alpino, sarà presente domani a Torino con la famiglia, l'allucinante avanzata degli alpini verso ovest nel gelo e nel fuoco. Visto che ce l'hanno mandato, con grande gentilezza io ve lo segnalo. E a tutti gli alpini e a tutte le penne nere, ovviamente, buona donata. Peter ha già la valigia, è già pronto per Torino, dice vado coi mezzi, perché sì, vai coi mezzi, perché 500.000 persone, c'è anche il Giro d'Italia domani a Torino, lascia perdere, usa i mezzi, tanto lo sciopero, credo, a Torino in generale non c'è, sospeso per gli alpini. Grazie Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e all'Alpino, oggi non lo nomino così, l'Alpino in regia, la linea Oscar Giannino, ci troviamo lunedì mattina.